senti quasi mi par di svenire. Se mi baci sogno di te notte di e balbetto in un sospiro. Baciami così, baciami così, baciami così. Quando parli sembra di udire un violin. Se sorridi palpita il sol nel mio cuore. E ripeto a te vicino. Bacia, bacia, bacia, baciami ancora. Io non so che cosa accadrà se domani i tuoi baci più non avrò, ma so già che senza di te soffrirò, di dolor mi consumerò, ma se mami tienimi ancora sul tuo cuore, dolcemente stringimi a te notte di e sognando l'eterno amor. Baciami così, baciami così, baciami così. When an irresistible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine. Don't say no, because I insist. Someone, somewhere, somehow is gonna be kissed. So on guard, who knows what the fates have in store. By their vast mysterious skies I'll try hard ignoring those lips I adore. But how long can anyone try? Fight, fight, fight, fight it with all of your might. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out, as sure as we'll live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give.